casa mixtape volume 1. Delirio, semplicemente la mia storia. Ricordi impressi in un istante, è la storia di un ragazzo insignificante. Uno di quelli che non vi ha mai dato rispetto, uno che non ha i sogni, c'ha le droghe nel cassetto. Da bambino ero strambo, vestivo largo, mi bastava il cappellino per sentirmi un altro. A scuola avevo problemi a socializzare, me ne fregavo degli altri e li guardavo male. I professori si impressionavano, i miei genitori si preoccupavano, convocavano mio padre e gli dicevano: suo figlio è strano, guarda che cazzo ha scritto sul diario. Scusa pa se ti ho fatto incazzare, scusa ma se per me sei stata male. Inseguo i miei obiettivi e di chi critica me ne frego, da solo contro me stesso, solo con il mio ego. Voglio solo un futuro brillante, no non mi vergogno, voglio fare il cantante. E non importa se il tuo sogno è gigante, la vita è una puttana che apre le gambe. Senza speranza, rinchiusa in una stanza, in paranoia mentre scrivo un altro testo. Voglio il successo, dannazione, lo voglio adesso. In questa vita non è mai troppo presto. Prepara le valigie alla prima occasione, se non lo fai lo faranno altre persone. Devi prendere tutto se non vuoi contare niente, devi essere viscido proprio come un serpente. E per ogni scorciatoia che poi prendi in questa vita, sappi che comunque ci sarà una salita. E non importa quanto dura, quanto è lunga la tua ascesa, per ogni salita poi c'è sempre una discesa. Canto della mia storia e di ogni esperienza vissuta, per le volte in cui vinco ogni puttana che sta muta. Questa è la mia storia, doppia S è la mia sigla. Non è solo musica, è una scelta di vita. La musica, credimi, abbia distrutto. Soldi e tipe, ti giuro, mi ha dato tutto. Non mi ha lasciato quando mi sentivo solo, mi ha preso e mi ha insegnato come fare per prendere il volo. Anche i miei amici pensavano fossi strano, quelli rimasti ora li conto su una mano. Io penso a me stesso ma non sono egoista, è che rinunciare sta nell'essere artista. Ma la gente non capisce, la gente non comprende. Finito tutto alla fine non conti niente, devi essere forte e non basta fare a botte. Devi fottere tutti dalla sorte alla morte. Vivo con orgoglio ogni fottuto giorno, se mi fai d'ostacolo io ti passo intorno. Me ne frego dei vostri pensieri estroversi, lo sappiamo entrambi che in fondo siamo diversi. Ci metto anima e cuore quando scrivo, mentre butto giù un'altra giornata come il digestivo. Questa bottiglia io l'aspetto di finire, mi ubriaco, non è certo il pranzo che voglio digerire. Ho imparato a rinunciare per avere qualcosa, ho rinunciato alla vita in cambio di cosa? Domande senza soluzioni, quelle che mi faccio nelle sere in cui torno a casa e mi sento uno straccio. Ti giuro, a me non mi ha mai spinto nessuno, non so chi ringraziare se un giorno sarò qualcuno. Volevo una vita speciale, non una come tante, ma ho scoperto che la realtà spezza le gambe. E per ogni scorciatoia che poi prendi in questa vita, sappi che comunque ci sarà una salita. E non importa quanto dura, quanto è lunga la tua ascesa, per ogni salita poi c'è sempre una discesa. Canto della mia storia e di ogni esperienza vissuta, per le volte in cui vinco ogni puttana che sta muta. Questa è la mia storia, doppia S è la mia sigla. Non è solo musica, è una scelta di vita.